Le Marche online. Viaggio alla scoperta delle Marche, navigando su internet. Un programma a cura di Luca Lorenzetti. Trovati e buona giornata da Luca Lorenzetti in studio per questa quarta puntata delle Marche Online. Vi ricordo, le Marche Online è un progetto di ricerca che promuove i migliori siti internet che riguardano la nostra regione, le Marche. L'Agenda Planning 2000 che abbiamo realizzato, le Marche Online guida alle Marche su internet, è giunta quest'anno alla sua seconda edizione ed è in vendita a partire da questi giorni presso le migliori librerie della regione. Bene, l'argomento di questa puntata è quindi l'università. Abbiamo raggiunto per voi in conferenza stampa il dottor Paolo Ercolani, preside della Facoltà di Economia dell'Università di Ancona. Al professor Ercolani abbiamo chiesto come si sta muovendo l'università sul fronte internet e se attualmente ci sono dei programmi per il potenziamento di questi servizi. No, non ci sono in questo momento programmi particolari, salvo migliorare quello che facciamo, nel senso si usa ampiamente sia internet che intranet. Su intranet direi che oggi siamo che forse il 50% dei documenti non vengono più fatti su carta, ma stanno negli archivi disponibili per tutti, ovviamente a vari livelli di visibilità, alcune cose sono riservate a interessati, altre sono libere. Direi un altro punto che dobbiamo ancora sviluppare: ogni docente ha una serie di pagine a disposizione, tutte quelle che vuole, in cui ci può mettere tutto quello che vuole per gli studenti. Alcuni già lo stanno facendo ampiamente, nel senso che c'è documentazione che serve per i corsi o tutte le informazioni. Quindi sono alcuni docenti, direi adesso saremo circa al 10%, che hanno una gran parte del corso sulle proprie pagine, per cui lo studente le può consultare. Sul piano dell'utilizzazione degli studenti per ora non mi pare che possiamo fare molto di più. Tutti gli studenti che lo desiderano hanno una casella di posta elettronica e attualmente ce ne sono 2000 di caselle per gli studenti. Non è possibile per uno studente stare, dopo che è entrato in facoltà, non mettere le mani sul computer perché non può fare niente, iscriversi agli esami lo deve fare così, acquisire una serie di informazioni le trova sul computer distribuiti, quindi su questo piano. E il problema è di migliorare il tutto, stare più attenti ai problemi della sicurezza, che ovviamente quando le informazioni sono tante diventano, si può partire dicendo dedichiamoci poca attenzione, dopo bisogna stare più attenti. Ma non credo che riusciamo a farlo l'anno prossimo. Un obiettivo è evitare per alcuni impegni didattici che tutti gli studenti che abitano nel territorio siano costretti a arrivare nelle aule della facoltà, ma che in certi casi possono anche stare, non dico a casa propria, ma in un qualche locale in cui con l'uso di internet e con la videoconferenza si possa sostituire qualche lezione. Bene, ringraziamo il dottor Paolo Ercolani, preside della Facoltà di Economia dell'Università di Ancona, e vi rimandiamo alla prossima puntata. Avete ascoltato Le Marche online. Viaggio alla scoperta delle Marche, navigando su internet. Musiche di Giacomo Caliolo, Raffaele Mazzei e Piero Trofa. Consulenza musicale Raffaele Mazzei. Un programma a cura di Luca Lorenzetti.